Mix 24, i gialli della storia. Sentì per radio che era andato alla Bolognina, aveva fatto un discorso. Ho saputo la sera stessa, ovviamente, io ero direttore dell'unità all'epoca. Fu un colpo, come si dice, a sorpresa, tranne per me. Da un giorno all'altro ci si trovò in un mare aperto. Ne parlai con mio padre. Mi colpì il fatto che lui mi incoraggiò a sostenere e disse anche: Occhietto ha fatto bene a rompere gli indugi. Per la prospettiva di un cambiamento. Io speravo in un cambiamento veramente radicale. Io sentivo che era la fine del Partito Comunista. Il Partito Comunista, come facciamo? Che coraggio hai avuto a fare questo? Io credo di averlo fatto come ultimo atto d'amore per la storia del Partito Comunista. Ma a cambiare nel PC non sarà soltanto il nome. È il 1989, l'anno in cui finisce il secolo breve, crolla il comunismo e il mondo cambia per sempre e anche in Italia cambia tutto. Tra i cambiamenti più radicali, la fine del Partito Comunista, che dopo un travagliato percorso di un anno e mezzo viene definitivamente sciolto il 3 febbraio del 1991. Una svolta epocale per la politica italiana che raccontiamo oggi a Mix 24. Un racconto che faremo con le testimonianze dei protagonisti di allora, leader e semplici militanti, che ci aiuteranno a capire un momento indimenticabile, avvenuto subito dopo la caduta del muro di Berlino e a cominciare proprio dall'ultimo congresso. Rimini, 3 febbraio 1991. Il discorso del segretario del PC, Achille Occhetto, chiude il 20° congresso, l'ultimo della storia del Partito Comunista Italiano. Cari compagni e cari colleghi, tutti sentono che è giunta in qualche modo l'ora di cambiare. Avevamo il dovere di salvare le idealità di fondo della sinistra, impedendole di morire con il totalitarismo comunista. Per quanto noi avessimo una storia diversa, però comunista ti chiamavi, e se finiva nel mondo la storia del comunismo non potevi che cambiare nome. Semmai, forse era fin troppo tardi. Alla svolta si è opposto un terzo del partito, guidato da un dirigente storico come Pietro Ingrao. Difendevo la ragione per cui ero sceso in politica. Una ragione di riscatto, redenzione, mutazione sociale. È un passaggio epocale nella storia della politica italiana, che ha provocato un dibattito senza precedenti nel più grande partito comunista occidentale. Una discussione in cui si sono confrontati tutti i dirigenti e migliaia di militanti, ma lo scontro, che per un anno e mezzo ha spaccato il partito, è ormai al termine. Fu un congresso molto, molto aspro, fu un momento di lacerazione, fu vissuto male da quelli che stavano lì. Non si tratterà solo di cambiare delle targhe sulle porte delle sezioni, occorrerà andare a una grande opera di conquista e di proselitismo. Noi saremmo finiti nel pulviscolo delle forze estremiste minoritarie. Abbiamo salvaguardato un partito. Oggi è un momento importante della nostra vicenda collettiva e sarà un momento memorabile della storia politica dell'Italia. L'ho sofferta, perché era chiaro, no? Il mio rispetto per quella storia è altissimo. Anzi, io credo di averlo fatto come ultimo atto d'amore per la storia del Partito Comunista. Per costruire, ecco il compito, ecco l'orgoglio che guida il futuro dell'Italia. Si concluda così, se dopo 70 anni, la storia del PC. E a Rimini la famiglia comunista si spacca definitivamente. Da una parte il PDS, dall'altra Rifondazione Comunista. Per la sinistra italiana si apre una storia nuova, fatta di sconfitte, successi, di cambi di simboli e di alleanze inedite. Ma qual è la storia che finisce a Rimini? Che cosa era davvero il Partito Comunista? Che cosa significava essere comunisti in Italia? Ancora le voci dei protagonisti, tra cui Enrico Berlinguer in un'intervista del 27 aprile dell'83, dei militanti e il commento di Michele Serra. La democrazia, la pace, la giustizia sociale, il lavoro, la istruzione. Noi siamo nati con la Costituzione, i principi della Costituzione erano alla base del nostro impegno. Era l'unica forza politica che poteva riuscire a darci qualcosa del miglioramento delle condizioni. ma in roba materiale, nel senso di stare un po' meglio la povera gente. Erano persone che volevano cambiare la società, la volevano fare più giusta, ma non potevano stare nel Partito Socialista, era chiaramente corrotto, non potevano stare nemmeno nella Democrazia Cristiana, era così immobile, quindi stavano nel PC. Un partito che si schierava con gli ultimi, ma che guardava con speranza alla terra dei Soviet. Il legame con il Partito Comunista Russo, infatti, ha segnato tutta la storia del PC. Ma il mito dell'URSS, ben presente nell'immaginario del militante comunista, non offusca in lui il sentimento di appartenere ad una storia diversa. In quasi tutti i militanti c'era questo sentimento di appartenere a una storia profondamente italiana. Ma per lei cos'è il potere? Il potere è uno strumento insufficiente, ma necessario per realizzare gli ideali in cui credo io e in cui credono i miei compagni. La qualità a cui è più affezionato? Quella di essere rimasto fedele agli ideali della mia gioventù. La militanza è una vera e propria scelta di vita, fatta al prezzo di rinunce e sacrifici. A fine turno, la prima cosa che facevamo, passavamo dalla sezione. Uno entra e trova dei mobili con i cappotti accatastati e le stufette a cherosene. Questo è la, cioè, con i compagni che discutono. Arrivava l'impiegato, l'operaio, il commerciante, la casalinga, che discutevano anche dei problemi che si vivevano all'interno della città. C'era uno schema di relazione. La relazione partiva dai problemi internazionali, passava attraverso i problemi nazionali, passava attraverso i problemi della città, passava attraverso il quartiere. Dalla sezione Mazzini partiva la rivoluzione per liberare il mondo. Facevamo, non so, liberavamo Cuba da lì. E alla fine il segretario di sezione, siccome vigeva il centralismo democratico, tirava le conclusioni, spesso ignorando buona parte del dibattito, si diceva d'accordo con tutti, ma poi spiegava che aveva comunque ragione il Comitato Centrale nel suo ultimo pronunciamento. Ma in quel 1989 tutto cambia. In Cina c'è piazza Tiananmen, nell'Europa dell'Est il crollo dei regimi di Polonia, Romania, Cecoslovacchia, ma soprattutto a Berlino c'è l'evento che cambierà per sempre l'assetto politico che per 50 anni ha dominato il pianeta. Io stavo a Bruxelles, avevo un incontro con Kinnock, che allora era il segretario del Partito Laburista, per chiedere a Kinnock se potevamo come Partito Comunista entrare nell'Internazionale Socialista. Entra uno nella stanza e dice: venite a vedere la televisione. E vedemmo le prime immagini delle piccolate sul muro di Berlino insieme. Il comunismo è crollato, non si è riformato democraticamente, non ha retto la prova della storia. Fece le prime dichiarazioni in cui disse che tutto cambiava e tutto bisognava cambiare, che era la fine del mondo diviso in due a Yalta e che si apriva una nuova fase nella storia del pianeta. Kinnock mi chiese la possibilità di cambiare il nome e io gli dissi: è molto difficile. Occhetto lo ripete 3 volte, cambiare il nome del partito è molto difficile, ma Occhetto sa che è anche necessario. E non è solo una questione di nome, il segretario sente che il suo partito rischia di rimanere schiacciato dalle macerie del muro di Berlino. E allora l'unica strada possibile è lo strappo, la rottura con il passato. Passano appena 3 giorni e Occhetto compie il passo che cambierà la storia della politica italiana. Tutto inizia a Mantova, nella Sala dei Giganti, affrescata da Giulio Romano. Io ero andato a Mantova per vedere i giganti di Romano e incontrai William, partigiano, medaglia d'oro bolognese, dicendo, che mi disse: perché domani che domenica non vieni in Piazza dell'Unità? C'è la celebrazione della battaglia di Portalame, cruenta battaglia partigiana di Bologna. Ma sono stanco, non vengo. Da Mantova fino a Castel San Pietro, dove lui dormiva a casa della sua moglie, per convincerlo a venire. Mentre sono in macchina, Occhetto si confida con il vecchio partigiano. Lui dice: ma se cosa dici tu se si cambia il nome del partito, se si cambia. Ma dico, per me il nome conta poco, l'importante è l'ideale che a me rimane nel cuore. E in quel momento io pensai, questa è l'occasione. Quindi la domenica andai alla Bolognina. È una fredda domenica mattina. La sezione del PC della Bolognina è affollata di partigiani. Il relatore interrompe il suo discorso e Occhetto viene fatto accomodare. Il segretario chiede di parlare ai partigiani. Mi ricordai che tra l'altro l'idea del rinnovamento a Gorbaciov venne parlando ai veterani della Seconda Guerra Mondiale e lì colse il momento, chiedere sulla base della resistenza il cambiamento. Occhetto in realtà parlò 6 minuti circa, non di più. Dice, adesso sono qui a parlare con i veterani italiani e credo che occorra dire le stesse parole che pronunciò Gorbaciov ai veterani sovietici. Che occorreva cambiare la vecchia strada per una strada nuova. Se non si faceva questo passo, tutto sarebbe stato perduto. La voce dell'inaspettato arrivo di Occhetto si diffonde immediatamente. Nella sezione accorrono decine di militanti. Venite fuori, venite a ascoltare cosa sta dicendo Occhetto. Sta dicendo delle cose strane. Tant'è che io, che pensavo di aver inteso qualcosa di nuovo, mi sono interrogato attentamente dicendo, ma devo applaudire o meno? Terminato il breve discorso, Occhetto guida il corteo per le strade della Bolognina. Il corteo si mise in fila, con le corone andammo verso la piazza, la tromba suonò gli squillo di attenti e fu deposta la corona. Nel frattempo però gli unici due cronisti presenti alla cerimonia si avvicinano ad Occhetto e in quel momento succede l'inaspettato. Un cronista mi avvicina e dice, ma tutto deve essere cambiato, anche il nome. Io non dissi né sì né no, dissi tutto e me ne andai. Con la storia della svolta della Bolognina riprendiamo dopo la viabilità. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24, siamo a Bologna quando Occhetto improvvisa un discorso sul rinnovamento, discorso che lascia perplessi i militanti. Ma il vero problema sarà il rapporto con la dirigenza, in particolare con Pietro Ingrao. Mi viene una telefonata che mi annuncia che Occhetto vuole parlare. E alle 4 lui mi chiama e mi dice, guarda, mi ha detto solo questo, c'è stato un fatto politico nuovo, io ho detto alcune cose, io ti prego, non pronunciarti prima che ci siamo visti a Roma. Occhetto pregò me, perché ero un vecchio amico personale, di andare all'aeroporto, me e Bassolino, di andare all'aeroporto ad accogliere Ingrao che tornava dalla Spagna per parlargli noi e non fargli leggere la cosa sul giornale. Sono atterrato a Fiumicino e ho trovato Alfredo, Reichlin e Bassolino. Naturalmente sapeva già tutto. Se ne accorsero, e probabilmente. Pietro fu molto freddo anche con noi. Gentile, come sempre, ma molto freddo. Insomma, in quelle cose lì ci voleva poco poi a capire dalla faccia mia. E capimmo subito, Alfredo, Reichlin ed io, che era molto determinato. Sì, però io mi pronunciai poco lì, già capii tutto, ma io già sapevo parecchio dalle cose che avevo letto sul giornale. Io non dissi molto. Ci disse no, non voglio sentire ragioni, non c'è discussione da fare, io sono contro, ci combatteremo. Grazie, arrivederci. Ma veniamo ai fatti, dopo. Io sono andato a casa, sono stato muto come un pesce. Era molto determinato a fare una battaglia, a fare una battaglia anche molto forte dentro il partito. E così fu. L'opposizione di Ingrao è solo il prologo di uno scontro tra diverse anime all'interno del PC. Una vera resa dei conti tra la classe dirigente che ha preso in mano il partito dopo la morte di Berlinguer e una grossa parte della base. Roma, 13 giugno 1984. In piazza San Giovanni si celebrano i funerali di Enrico Berlinguer. Alla fine della cerimonia, due uomini incrociano i loro sguardi, si avvicinano l'un l'altro, sanno che hanno qualcosa da dirsi. Finito i funerali, tornarono insieme in macchina, Occhetto e D'Alema. Avevano fatto, io l'ho chiamato, il patto del garage. Mentre arrivano a Botteghe Oscure, i due dirigenti parlano della futura leadership del partito. Quando arrivammo con la macchina nel garage, io guardai D'Alema e dissi: ma adesso che bisogna fare? Lui mi disse: guarda, io mi ero reso conto, diciamo, che al vertice del partito non sarebbe arrivata la mia generazione, ma la vostra. Ecco, che questo era il disegno di Berlinguer, però nella condizione in cui che si è creata, le cose potrebbero cambiare. E insieme capirono che nessuno dei due poteva fare il segretario, che la scelta doveva cadere per forza su Natta come garante della continuità con Berlinguer. Ma i due parlano anche del dopo Natta, della sua successione. E D'Alema disse: beh, prima o poi devi fare il segretario. E lui mi disse: io posso candidarmi in questa prospettiva se la vostra generazione mi sostiene. E io gli dissi che condividevo il suo giudizio e che quindi avremmo lavorato insieme. Dissi: ma io adesso sostengo Natta. Fine della conversazione. Nessun patto. 14 giugno 1987. Alle elezioni politiche il PC perde oltre il 3% dei voti. Alessandro Natta, diventato segretario del partito dopo Berlinguer, propone un ricambio generazionale. Vice segretario diventa Occhetto, 50 anni, il più giovane dei vecchi, il più vecchio dei giovani. Ma al vertice del partito arriva anche una nuova generazione di dirigenti cresciuta sotto Berlinguer, i cosiddetti quarantenni. D'Alema, Fassino, Petruccioli, Veltroni, Livia Turco per le donne. Gubbio, 30 aprile 1988. Durante un comizio Natta viene colto da un malore. Mentre è ancora nel letto di ospedale, alcuni dirigenti criticano la sua gestione del partito. I giornali parlano di golpe dei quarantenni. Non c'è stato nessun golpe dei quarantenni. Natta oramai aveva fatto il suo tempo, rappresentava una generazione vecchia, un modo anche vecchio, insomma, di vedere alla prospettiva del partito, e che Occhetto poteva rappresentare il rinnovamento necessario. Due mesi dopo, Natta rinuncia alla carica di segretario. Gli subentra Achille Occhetto, un togliattiano eretico. Fin dal primo discorso, Occhetto lancia le sue parole d'ordine. Discontinuità, nuovo corso, nuovo PC. Da subito Occhetto inizia a fare i conti con l'eredità del partito. Prima prende le distanze da Togliatti, giudicato corresponsabile dello stalinismo, poi taglia i ponti con la rivoluzione d'ottobre. Nel febbraio del 1989 infine vola a Mosca per incontrare il segretario del PQS Gorbaciov, che dal 1985 ha avviato una stagione di riforme in Unione Sovietica. Gorbaciov per noi è stata una boccata d'aria e anche un piccolo inganno. Una boccata d'aria perché in dubbio diceva cose bellissime che ci davano ai comunisti italiani ragione del loro riformismo, però ci diede un po' di illusione nei primi tempi, l'illusione che si potesse riaprire la partita persino in Unione Sovietica. Quindi, anche se in mezzo a molte difficoltà, il nuovo corso immaginato da Occhetto va avanti e va avanti fino alla svolta della Bolognina. Adesso però per il segretario è il momento della verità, il confronto interno all'organismo che governa il partito, il Comitato Centrale. E il 20 novembre dell'89 a Botteghe Oscure succede qualcosa di inaspettato. Centinaia di militanti si raccolgono davanti alla sede del partito per protestare. Pensavo che potevo andare in minoranza. Pensavo che la base presa dall'elemento emotivo del nome mi mettesse in difficoltà. Noi non avevamo nulla di cui pentirsi, avevamo commesso degli errori, ma orrori nel Partito Comunista Italiano non mi pare. Siamo stati dalla parte giusta, cosiddetta, cioè dei più poveri, dei più deboli. Abbiamo cercato di combattere le ingiustizie e adesso io devo cambiare anche nome pur non avendo fatto niente. Perché? All'arrivo dei dirigenti, la rabbia dei militanti si scaglia contro quelli che si sono già pronunciati in favore della svolta. Per il PC è un fatto senza precedenti. È chiaro che nei militanti c'è un po' di, come dire, di sbandamento, no? Perché ho capito, va bene, cambiamo nome, poi cosa facciamo? Poi arriva Pietro Ingrao, La notizia della sua opposizione alla svolta si è già diffusa tra i militanti e per lui sono applausi. Cari compagni e cari compagni. 20 novembre, nella relazione d'apertura, Occhetto motiva la sua proposta di costituzione di una nuova formazione politica che vada oltre il Partito Comunista. La svolta aveva un compito molto preciso, impedire che i comunisti italiani rimanessero sotto le macerie del socialismo reale. Un progetto politico che mette in campo nuove culture, linguaggi del nostro tempo. Cercava anche di dare al partito il senso che non si stava ripiegando. 21 novembre è il giorno dell'intervento di Ingrao. Il suo no alla svolta è netto per la vaghezza della proposta e per la mancanza di interlocutori. È dinanzi a questi singolari silenzi che allora sorge l'aspro interrogativo che il senso di questa operazione sia essenzialmente un altro, la dichiarazione di morte del comunismo. Il timore di Ingrao era quello che per quella strada ci potesse essere una deriva che ci portava su posizioni moderate, credo. C'è bisogno di una tensione più alta verso il comunismo, un alto orizzonte per cui lavorare. La proposta che ci viene presentata non va in questa direzione. Per questi motivi sono contrario ad essa. Riteneva che abolire il Partito Comunista significava dire: non ho più un orizzonte. Io credo che insomma Ingrao non sia mai stato veramente un innovatore, a mio giudizio. Un eretico, ma non un innovatore, sono due cose diverse. Mix 24, i gialli della storia. Siete ancora su Mix 24, dove stiamo raccontando il cambiamento che è venuto all'interno del PC dopo la dichiarazione di Occhetto alla Bolognina sul cambio del partito. Siamo al Comitato Centrale in cui si è espresso con chiarezza l'opposizione di Piero Ingrao. 22 e 23 novembre. Tutti gli interventi che seguono determinano una scelta di campo. Con il segretario si schierano compatti i quarantenni. Io sento che stare fermi rischierebbe oggi di costruire le condizioni di un nuovo ritardo. Ma se noi smarrissimo questa occasione, io credo che saremmo inevitabilmente destinati a declinare. Ero convinto che l'esperienza storica del Partito Comunista Italiano si fosse conclusa. Era giusto prenderne atto anche per aprire una prospettiva nuova per la sinistra italiana e per l'Italia. Anche l'ala riformista del partito, guidata da Napolitano e Macaluso, appoggia la svolta di Occhetto. A differenza del segretario, però, Napolitano e i miglioristi chiedono un progressivo riavvicinamento ai socialisti. Il Partito Comunista doveva recuperare, diciamo così, il nucleo vitale della storia del PC e proiettare questa storia nel socialismo europeo. Ecco, fare un partito socialista. Occhetto alla maggioranza. Ma i riformisti guidati da Napolitano e Macaluso spingono per un incontro con i socialisti e il rapporto col PSI di Craxi diventerà un tema centrale del dibattito a sinistra. Noi abbiamo assunto, cari compagni, un atteggiamento che è stato subito un atteggiamento aperto, disponibile alla possibile futura convergenza su di un terreno comune di unità socialista. Craxi l'aveva proposta, unità a sinistra, sostenendo il comunismo è morto, quindi quel prodotto politico non c'è più, ma il grosso delle forze sociali, culturali, intellettuali, diciamo di carattere progressista del nostro paese, come nel resto d'Europa, si sarebbero riconosciuti in identità riformista, e questa identità riformista inevitabilmente avrebbe dovuto avere, come si può dire, come riferimento storico il socialismo democratico e come riferimento diretto di guida Bettino Craxi. Non si capiva bene se era la proposta di fare insieme un partito non comunista oppure di semplice annessione per resa, perché era finito il comunismo. Bisognava indubbiamente lottare, diciamo così, contrastare la politica di Craxi, ma farlo su un terreno più unitario col Partito Socialista, non sperdere l'elemento della unità della sinistra. Tuttavia, il riavvicinamento tra comunisti e socialisti resta un miraggio. Un incontro mancato che peserà nel futuro della sinistra italiana negli anni a venire. Sicuramente ha pesato sulla sinistra italiana il fatto che la fine del PC non abbia portato alla nascita di un grande partito socialista in Italia, che poteva essere un esito, diciamo, di un partito di impronta socialdemocratica. La questione tra i comunisti e socialisti sarà destinata a condizionare la politica italiana per molti anni, ma nei giorni della svolta il dibattito interno prende la strada voluta da Uchetto. Il Comitato Centrale approva a larga maggioranza la proposta del segretario, mentre il fronte del no conta circa un terzo della dirigenza. A decidere il destino del Partito Comunista sarà un congresso straordinario. Prima però la parola passa ai congressi di sezione e lì si aprirà una stagione di discussioni appassionanti e scontri durissimi. Figurati se non era un trauma per tutti noi che eravamo comunisti veri. Io affermo che sono in crisi, ero in crisi, sono ancora in crisi. L'importante è ora fare la svolta. Con chi? Come? Con la cosa? Io, compagni, vorrei sapere cos'è questa cosa. Il clima era molto, molto teso, molto, però anche molto fervido di idee e di proposte. E noi abbiamo sprecato tanto del nostro tempo a spiegare, noi guarda che siamo diversi dai cinesi, che siamo diversi dai vietnamiti, che siamo diversi di quelli di Mosca, che siamo diversi da quelli dei tedeschi dell'est, siamo diversi di Praga, e spesso il nostro tempo a spiegare che siamo diversi. Era una situazione molto emotiva, c'era questo fatto di venire qui a decidere qualcosa che sembra importante. Ma io devo poter parlare e devo poter contare. E anzi, mi piaceva questa discussione, però moltissime cose che ho detto non le condividevo già il giorno dopo. Il compagno mi ha fatto le conclusioni alla fine. Ma che cazzo mi ha concluso? Che poi noi eravamo tutti contrari. Ma io mi sono sbagliato. Ha concluso. Il confronto tra sostenitori e oppositori della svolta si fa durissimo. Ma guarda, io veramente avrei un dubbio. No, in questo momento non si possono avere dubbi. O stai di qua o stai di là. Compagni, non sei svegliato, Ghetto. Mi è stata dimostrata che è stata sveglia a voi. Da un sogno. Perché sono almeno 20 anni che il Partito Comunista non è un partito comunista. Quella discussione lì ruppe anche, diciamo così, dei legami di amicizia tra persone. C'è chi ha pianto, le emozioni, le accuse reciproche di chi stava di qua, chi stava di là. C'è stata gente che non si è più salutata. Ma che sei il fatto che il Partito Comunista non deve cambiare nome? Compagno, se mi dai il permesso di parlare. Sono stato sempre uno dei promotori delle battaglie. Anfine che le posso fare, le farò sempre. E se si fa questo, che si cambi il nome, io starò dentro. Però formerò una corrente dentro al partito. Il 5 marzo del 90, dopo 4 mesi dalla Bolognina, finiscono i congressi di sezione. La proposta di cambiare il nome e il simbolo del partito passa con il 65% dei consensi e siamo così al congresso che deve decidere le sorti del Partito Comunista Italiano. Bologna, 7 marzo 1990. Si apre il 19° congresso del PC. I 1092 delegati sono ripartiti per la prima volta nella storia del partito sulla base dei voti ottenuti dalle mozioni. Il fatto di avere mozioni separate era già la prima fine del Partito Comunista. Mi aiutarono a cambiare il partito prima ancora di avere finito il congresso. In tribuna c'è tutta l'imprenditoria italiana, i principali leader degli altri partiti, osservatori nazionali e internazionali. Il clima, insomma, è quello delle grandi occasioni. C'era una partecipazione non soltanto degli iscritti, insomma. C'era un mondo che guardava a noi e voleva capire dove si andava. Da un palco sollevato da 13 gradini, Uchetto inizia la sua relazione. 10.000 parole, 133 pagine, decine di citazioni, 50 interruzioni per applausi. È un discorso che costa al segretario 2.000 calorie e più di 5 chili di peso. Ci fu una grande tensione Una grande tensione che nasceva anche dal fatto che noi non eravamo abituati col centralismo democratico allo scontro politico interno, quindi era un mutamento di pelle. Fu un congresso di grande scontro e anche di grandi emozioni, non era soltanto così una fredda discussione politica, in qualche modo si metteva in discussione la propria esistenza. 9 marzo 1990. Sul palco sale Pietro Ingrao e nella sala cala il silenzio. Compagno Occhetto, mi consente uno scherzo. Egli, citando il poeta Tennyson, ha invitato ad andare oltre l'orizzonte. Io, più modesto e meno titanico, chiedo di tenere aperto questo orizzonte, questo mondo. Io penso che sia lecita, possibile, in campo, una lotta per un comunismo che non sia totalitario. Io sentivo tutto il peso di rispondere a un oratore anche di quel calibro. Il compagno Ingrao ha rivendicato ancora una volta il diritto al dissenso, ma noi siamo andati molto oltre il riconoscimento di tale diritto. E le mie conclusioni hanno un grandissimo successo. Per la prospettiva di un cambiamento della situazione politica italiana che ormai matura nel nostro paese. C'è tutto il congresso in piedi, Ingrao si alza e mi viene a dare la mano. Quando alla fine di questo scontro, diciamo, sia pure nella diversità delle opinioni, insomma, ci sentimmo compagni, in quel momento ci fu un momento di grande emozione. Era lo scaricamento di una tensione tenuta per mesi e mesi, e perché mi dissi, bene, finita, finita qui. Non mi ricordo se piansi, però certamente ero commosso anch'io. Ricordo che LK dice, ma qui piange anche da lei, ma allora vuol dire che la linea del partito è piangere. Io sono, non sono freddo, sono un uomo composto. Sembra la pacificazione dei conflitti, una catarsi collettiva capace di ricucire ogni strato. Non era vero niente. Perché poi vollero un secondo congresso, di nuovo sulla conta di chi era a favore o no al cambiamento del nome, che avevamo appena deciso. E questo trasformò il dibattito interno in uno scontro cieco. Contribuì a drammatizzare i contrasti interni. Nei mesi che seguono, lo scontro tra i due fronti si fa durissimo. E lì si aprono le trattative, anche tra componenti della mia maggioranza, con quelli che erano contrari, trattative che non erano guidate da una idealità, erano legate evidentemente a interessi di gruppi per il potere del partito. Occhetto ebbe la sensazione che intorno a lui si formasse un dissenso che non era politico ma personale. Poi parliamoci chiaro, il rapporto con D'Alema. Era molto efficiente, sapeva tenere i rapporti con i gruppi dirigenti locali e quindi mi garantiva sul terreno anche di coloro che erano più refrattari alle novità. Lui mi chiese ovviamente di andare a fare quel lavoro di coordinatore della segreteria, quello che deve in qualche modo gestire la struttura. Quello che ho sempre rimproverato a D'Alema è di aver fatto il fedele esponente della segreteria in un posto delicato in cui doveva rappresentarmi, nello stesso tempo di aver utilizzato questo potere per tessere dei rapporti. Io sono un uomo che si è sempre mosso sulla base delle sue convinzioni e con una certa fermezza nella lotta politica, anche nei confronti di Occhetto. Il problema è che D'Alema cresceva e diventava un uomo chiave, e come capita nelle migliori famiglie, i galli che cantano si beccano poi l'uno con l'altro, no? Chi ha portato danno alla svolta sono stati coloro che, avendo un gran mal di pancia, non avendone capito la portata e le prospettive, o l'annacquarono o cercarono di frenarla progressivamente. Condividevo la necessità di questo cambiamento e poi infatti lo sostenni. Sul modo in cui questo era accaduto io ebbi delle perplessità. Credo che noi avremmo dovuto fare i conti in modo meno sbrigativo con la storia del PC, anche per vedere che cosa era morto, che cosa era vivo. Aveva una tendenza a frenare le aperture, che poi rimase una costante della sua impostazione politica, più legata alla difesa del vecchio sistema politico. Può darsi che in questo senso io sia stato, come dire, più conservatore nello sforzo di conservare alcuni valori, a mio giudizio, positivi, che rischiavano di essere dispersi insieme a ciò che invece doveva essere cambiato. Dopo il congresso del 90 la situazione si complica. Occhetto è tra due fuochi: da un lato il fronte del no, dall'altro il confronto con l'ala migliorista e con Massimo D'Alema. Fino a quando nell'ottobre del 90, con un altro colpo a sorpresa, Occhetto sceglie il nuovo nome del partito. Da adesso in poi si chiamerà PDS, Partito Democratico della Sinistra. Il nuovo simbolo sarà una quercia che ha le sue radici nella falce e il martello del vecchio partito. In un clima incandescente si arriva all'ultimo congresso del Partito Comunista. Il 20° congresso del PC dà vita al Partito Democratico della Sinistra con 807 voti favorevoli, 75 contrari, 49 astenuti. Dopo un anno e mezzo di aspre discussioni e scontri politici interni, si chiude la storia del Partito Comunista Italiano. Qui si è consumata una tragedia. Comunque la si pensi, è finito il Partito Comunista. È stato un finale giusto. Noi eravamo già convinti prima e abbiamo lavorato per costruire questo nuovo partito. È la fine, è la morte, è il lutto che si prende per una cosa che si spezza. Contemporaneamente, nella sala E della fiera, alcuni dirigenti firmano l'atto di nascita di Rifondazione Comunista. È la scissione. Il PC è fuggito dal Novecento. Noi reagivamo a una dissipazione. Ecco, questo ci era sembrato. E solamente domani mattina sarà eletto il primo segretario del Partito Democratico della Sinistra. Con la nascita del PDS viene approvato lo statuto che regola l'elezione del nuovo segretario, prevista per il giorno dopo. Ci inventammo, noi siamo bravi a farci del male, la formula che per legge del segretario nazionale occorrevano, se non ricordo mai, 2/3 degli aventi diritto. Una norma statutaria assurda, che prevedeva il voto della maggioranza qualificata, eccetera. Alla fine si era costituito un organismo dirigente con una parte dei membri non sapevano di farne parte. Già nel pomeriggio, nella hall della Fiera di Rimini, si cominciano a vedere le prime valigie dei delegati in partenza dal congresso. Ci rendiamo conto che i 2/3 forse non c'erano. Io andai a parlare con... c'era Fassino, c'era Petruccioli, c'era Mussi, persone che conoscevamo. Ma siamo sicuri di andare a votare subito dopo la fine del congresso? Io ero contrario, avevo messo in guardia, diciamo, dai rischi di questa procedura frettolosa. E cogliemmo anche segnali espliciti di non voto per Occhetto anche da parte di compagni miglioristi. E l'aria che tirava era che il voto per Occhetto forse non ci sarebbe stato. Ben presto, infatti, è chiaro che manca il quorum per l'elezione di Occhetto. Sta di fatto che questa votazione è da considerarsi nulla e quindi va ripetuta. Il nuovo partito della Sinistra Italiana nasce senza il suo segretario. Occhetto mi pare che è stato presto travolto e non mi ha sorpreso, perché non aveva molti amici Occhetto lì dentro. L'epilogo non fu bello, no? Se ne andò infuriato, insomma. E aveva anche ragione. Fu secondo me, un risultato di nervosismo, di improvvisazione. Ci fu anche un elemento di organizzazione, di usare il quorum, che non voleva dire che io perdevo, non venivo eletto, per poi condizionarmi come segretario, insomma, avere un'anatra zoppa successivamente. Gli stessi che denunciarono il complotto, secondo me, furono loro, non per cattiveria, ma per precipitazione, i responsabili di questo pasticcio, questo che era stato un pasticcio più che un complotto. Tuttavia, secondo Claudio Velardi, allora stretto collaboratore di D'Alema, la confusione sarebbe stata creata ad arte per condizionare la futura segreteria di Occhetto. Non mi pare che la fonte sia particolarmente qualificata, diciamo, e poi diciamo che interesse poteva avere io, che poi qualcuno dell'area migliorista non abbia nel segreto votato per Occhetto, sì, è probabile che questo sia, ma questo avviene sempre, diciamo, è normale in un organismo dirigente. Il problema è che se tutti gli aventi diritto avessero partecipato al voto, Occhetto sarebbe stato eletto senza discussione. Non ci sono allora motivazioni politiche? Motivazioni politiche dovrebbero essere addotte da qualcuno sulla base di un'analisi che non mi pare si sia stati in grado di fare e motivare. Capisco che c'erano state tutta una serie di equivoci, tuttavia democraticamente lui non era stato eletto, insomma. Secondo lei dovrebbe ripresentarsi? Occhetto è stato proposto, quindi bisognerà che ci sia una nuova proposta per la prossima riunione. Qualcuno pensò che io potessi approfittare di questa circostanza per candidarmi al suo posto a guidare il partito, cosa che forse sarebbe stata anche apprezzata da qualcuno. Mentre alla fiera si compie il dramma di Occhetto, nel vicino Hotel Continental arriva Massimo D'Alema. Io fui invitato ad andare in questo albergo. Entrai in una stanza dove erano riuniti, diciamo, il gruppo dei dirigenti storici. Si poteva sospettare che, siccome molte di queste persone non avevano una grande simpatia per Occhetto, diciamo, potessero pensare in quel momento di dire puntiamo su un altro. Molti ritenevano che Occhetto aveva fatto la sua operazione, eccetera, eccetera, però non strutturava il partito. I senatori del partito propongono al giovane dirigente la segreteria. Mi dissero, loro mi disse ti dobbiamo parlare, e io dissi no, non dobbiamo parlare, dobbiamo semplicemente impegnarci tutti per eleggere Occhetto segretario, e me ne andai. Occhetto sarà nominato segretario una settimana dopo, ma da quel momento niente sarà più come prima. Cambia davvero tutto, cambi il tipo di partito, va via il mito della disciplina interna, nasce il pluralismo, nascono le componenti, nascono le correnti e incomincia un'altra storia. Il nuovo partito è sembrato una specie di PC un po' dimagrito, e con meno fisionomia, con meno carattere. Non mi rendevo conto di quello che stava succedendo veramente. Continuavo a dire ma no, ma poi tanto noi siamo troppo forti, il partito è troppo forte, riusciamo a ritornare, saremo di nuovo il Partito Comunista, non si butta via così un partito così con l'acqua sporca, il bambino con l'acqua sporca. La storia del PC avrebbe meritato una maggiore attenzione e un maggiore rispetto. Per sapere quello che vuoi diventare, devi sempre sapere quello che sei stato. Se non lo sai, non arrivi in nessun posto. Noi, dopo la svolta, come ex Partito Comunista, a differenza di tutti i partiti comunisti dell'Occidente e direi del mondo, andiamo al governo. La svolta ha sicuramente condizionato la storia della sinistra e la storia d'Italia, anche perché ha aperto la strada alla possibilità che la sinistra andasse al governo del paese. Senza quel passaggio sarebbe stato mai pensabile che la sinistra nel suo insieme, sia pure in un centro-sinistra, diventasse forza di governo nel del paese in passaggi, in momenti così decisivi come quello di agganciare l'Italia all'euro? Pichetto rimane un grande protagonista della storia del paese, è l'uomo che ha avuto il coraggio di una svolta straordinaria, insomma, che ha posto fine alla vicenda del PC, che ha dato un nuovo fondamento alla sinistra italiana. Questo suo ruolo rimane incancellabile. Il compito della generazione che è venuta dopo la mia, cioè quella della svolta, era rifondare la Repubblica. Questo compito non è stato assolto. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.